Sono tornato! Gustavo, bentornato! Vedo che abbiamo ospiti. Sì, li avevo invitati per la scorsa puntata, ma sono stati così gentili che hanno deciso di farmi compagnia fino al tuo ritorno. Ma dato che non sei solo, posso tornare anche più avanti. No, fermo! Non ti muovere, ci aspetta la sesta puntata. Ma l'estate è finita, devi tornare a Ma scuola. io l'ho finita la scuola! Ho tre lauree e un sacco di tempo libero! Che carino! Carino? Carino un corno, tu non immagini neanche cosa. C'è qualcosa con Geppi Cilento! Vuoi vedere la fine dei tuoi giorni? Per quando è prevista? Vorrei controllare la mia agenda. Ma che dicono? Non puoi capire. Comunque, qui fuori trovate il passaggio per l'aeroporto. Yes, i miei amici inglesi sono morti di solitudine quest'estate. Quindi, vado a trovarli. Sì, certo. I miei affari aspettano a me. Niente da fare. Tranquillo, te lo troveremo noi, vero? Certo. Fate buon viaggio! Alla Sta prossima! zitto, pazzo! Ok, ciao! Car, l'arte a portata di click. Un giorno mi spiegherai quei tipi e i discorsi che facevate. Mi dispiace deluderti, ma voglio dimenticare tutto. Allora, racconta un po' dove sei stato. Te l'ho detto, ho noleggiato online una macchina del tempo. Hai visto che soli in questi giorni? Mi sto confondendo. Che macchina e che tipo di tempo? Tempo, quello che scorre, quello che va, quello degli orologi. Ah, avevo capito bene allora. Ma non ti chiedo dove tu abbia trovato un mezzo simile. Avrei mica venduto l'anima al diavolo. Chi lo sa? Comunque, indovina dove sono stato. Non so, ma spero che sia durante il periodo di espansione islamica, perché è l'argomento di oggi. Beh, No. Perché dobbiamo parlare dell'Islam? perché nel periodo che va dal VII al IX secolo, il Mediterraneo vide il nascere di una nuova civiltà, quella araba. L'Arabia non è bagnata dal Mediterraneo! Infatti, ma nel Medioevo i domini musulmani andavano ben oltre l'Arabia. Come Spagna, Sì! Sicilia, Sì! Mesopotamia, Sì! Nord Africa, Sì! Palestina, Sì! Australia! Sì! No, Cosa no? ho detto Australia. Ah, beh, sì. La caratteristica della cultura islamica fu quella di riuscire ad integrare al suo interno le culture dei popoli conquistati e si dimostrarono molto tolleranti con gli sconfitti. Anche coi canguri? Questo si riflette anche nell'arte, come ad esempio nella cupola della roccia, che si trova a Vediamo Sydney. Gerusalemme. Non so come tu abbia potuto pensare a una cosa simile. Chissà. Comunque sorge infatti sul Monte Moria, un luogo sacro persino a tre religioni differenti. Pensa un po'. Sì, quella ebraica è cristiana perché è legato alla figura di Abramo, e quella islamica come luogo dell'ascensione di Maometto. Sottolineando in questo modo il fatto che Abramo ha la stessa sacralità per cristiani, ebrei e musulmani. Questo infatti indica che. Cosa indica? Indica che i musulmani scrombano la pallavolpetti per. Non trovo le parole. Beh, magari intendi dire che la religione islamica si propone fin da subito non come un nuovo culto, ma come una nuova rivelazione fatta dall'arcangelo Gabriele a Maometto per ribadire il messaggio divino che gli ebrei prima e i cristiani dopo avevano mal interpretato. Era questo Cosa? quello che stavi cercando di dire. Ma quando? Ah, giusto! Boh, me lo sono dimenticato. Vabbè, fa niente. Allora sta cupola? Sì. La cupola fu voluta dal sultano Abd al-Malik per celebrare la vittoria dell'Islam e per questo fu costruita a Gerusalemme, che come abbiamo detto era sacra anche a ebrei e cristiani. La pianta, regolarmente annaffiata e potata per renderla ottagonale, presenta quattro ingressi, uno per punto cardinale. Esatto, all'interno del primo ottagono ce n'è un altro, più piccolo ovviamente, detto Tawaf, che serviva come percorso intorno alla roccia sacra. Sì, la roccia, che per gli ebrei rappresentava il punto dove passava l'asse del mondo, per stirare i vestiti dell'universo. Sì, certo. Invece di fare lo spiritoso, dimmi un po' com'era decorata la cupola. Beh, la cupola era in origine ricoperta da lastre d'ottone dorato, che si riflettevano sulle colonne di marmo. Inoltre sulla cupola ci sono scritte prese dal Corano, ma gli arabi sono stati furbi. perché hanno usato passi che non contraddicevano gli insegnamenti delle altre due religioni. Dato che l'arte islamica prende spunto dalle culture sottomesse, in questo edificio possiamo vedere elementi romani e bizantini, come mosaici, assieme ad altre decorazioni come motivi floreali e geometrici. Ci sono un sacco di finestre, 56! Bravo, mi ha stupito. Come hai fatto a ricordarti tutto? Cosa? Quello che... Vabbè, lasciamo stare. Hai giustamente accennato alla scrittura araba, che è nata per essere bella. Questo perché, secondo l'Islam, la bellezza è un modo per avvicinarsi a Dio. Anche perché la moschea non ha nulla a che fare né con le mosche e né con la chiesa cristiana. Nella chiesa, infatti, Dio si mostra ai fedeli attraverso l'Eucarestia, mentre la moschea è semplicemente un luogo di preghiera. Complimenti, le macchine del tempo ti fanno bene. Le cose? Ma hai venduto l'anima o il cervello al diavolo? Comunque, gli arabi usarono la cupola per rappresentare la volta celeste. E ricorda che questo edificio non è una vera e propria moschea, ma più un santuario. Passiamo ora a un altro argomento. Strano, di solito lo dico io. No, lo dico io. No, solitamente io. No, io. No, no, no, io. Aspetta, cosa? Diamine. Vabbè, sai qual è la più antica moschea in cui è presente un esempio di arte figurativa? Quella di Canberra? Ancora con questa storia? No, è quella di Damasco, costruita tra il 706 e il 715. Alla faccia, occupa 9 numeri civici? Ovviamente no, sto parlando di tempo. Comunque, fu costruita dal califfo Al-Walid. Ah, ma è quella con un ampio cortile circondato da un portico? Sì, per tre lati. Dentro invece ha 3 lunghe navate, con quella centrale che porta al Mirab. Cioè? È una specie di nicchia che indica la direzione della Mecca per la preghiera. Ah, ok. Parlando del mosaico all'interno, rappresenta una città sulle rive di un fiume. E dei gruppi sparsi di alberi. E sai qual è il significato connotativo? Prima dimmi cosa vuol dire connotativo. Allora, se tu guardi un edificio, in realtà ne vedi due. Quindi vuol dire che sono ubriaco. No, ne vedi due in senso simbolico. Uno è l'edificio in quanto struttura. L'altro è il messaggio che vuole trasmettere. Ah, ma allora non lo so. Beh, in questo caso gli alberi non servono come sfondo, ma diventano i protagonisti dell'opera, che quindi è la rappresentazione simbolica del paradiso musulmano. E gli edifici della città indicano 3 grandi città conquistate dagli arabi: Gerusalemme, Antiochia e Istanbul. E Adelaide. Ti pongo e plastilino una domanda io ora. Spara. Boom! Fortuna che non ho detto sputa. Sì. Comunque, sai qual è quella moschea con non 2, non 3, non 10, ma ben 19 navate? Penso che tu ti stia riferendo alla moschea di Cordova. Eh? Ma perché esiste davvero? Sì. E adesso mi dirai anche che è stata costruita nell'VIII secolo, quando gli Umayyadi si spinsero in Spagna, e magari l'hanno costruita in più di 3 secoli, e che, volendo esagerare, le navate sono costruite da ben 2 ordini di archi, uno sopra l'altro, riprendendo l'acquedotto romano? Sì. Ma non mi prendere in giro. Poi magari c'è anche una cupola, magari a nord, e il Mirab si apre in un arco a ferro di cavallo. Bravo. E poi, visto che ci siamo, mi dirai anche che le iscrizioni sono sia una decorazione sia un messaggio, e che una volta dentro sembra di trovarsi in una foresta pietrificata, dove non riesci a vedere la fine, anche perché c'è poca luce. Esattamente. Certo che ne hai di fantasia. Non posso credere che tu abbia descritto così bene la moschea andando a casaccio. Cosa? Vabbè, per oggi è più che abbastanza. Sì, dai. Non so più che dire. Neanche io, ma non dovremmo parlare adesso. Ah no? Cioè, io non posso fare... No, non puoi, c'è la sigla. E io lo faccio. Ciao, alla prossima. Ciao. Nicar, l'art a portata di click.